Già che cadi, cadi forte per favore, e quando cadi devi farti male, rompere le cose. Vento che soffi, soffia il senso alle parole, e quando passi spazza e portati via i tetti anche le case. Forse domani tornerà il sole, but anyway, this day anyway, it's a rainy day. But anyway, this day anyway, it's a rainy day. E temporale fai più forte, più rumore. Voglio tempesta, la peggiore che ci possa capitare. Un cielo nero, così nero da annullare. Lui è nel letto ed il suo sguardo dice che sta per andare. Forse domani ritorna il sole, but anyway, this day anyway, it's a rainy day. Anyway, this day anyway, it's a rainy day. Voglio l'uragano più feroce che ci possa capitare. Se tutto è niente, niente comunque più di quello che io posso sopportare. Mi fa male il suo guardare, e quello che mi vuole domandare: cosa succede? Oggi si muore, si spegne il sole, ah, e se domani, domani forse, forse domani, ma anyway, this day anyway, it's a rainy day. But anyway, this day anyway, it's a rainy day.